A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Allora, in nome del popolo italiano, fissi gli articoli 533 e 535 CPP. Il Tribunale dichiara Berlusconi Silvio e Berlusconi Paolo colpevoli per reato di quell'articolo 326 Codice Penale, così come loro rispettivamente contestati, e condanna Berlusconi Silvio alla pena di anni 1 di reclusione. Berlusconi Paolo, ritenuta la contestata recidiva, alla pena di anni 2, mesi 3 di reclusione. Condanna entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali. È stato il Watergate italiano, la storia di un'intercettazione rubata, di una grande e controversa operazione finanziaria e di un ancor più ampio scandalo politico. Per questo caso di spionaggio, ora Silvio Berlusconi è stato condannato ad un anno per concorso in rivelazione di segreto d'ufficio, per la pubblicazione sul giornale il 31 dicembre 2005 nel pieno dell'inchiesta sulla scalata Unipol BNL dell'ormai famosa intercettazione in cui l'allora segretario dei DS Piero Fassino esclamava al telefono con Giovanni Consorte, numero uno di Unipol: «Allora, abbiamo una banca?» Una conversazione mai trascritta dagli inquirenti, una conversazione che all'epoca esisteva solo nella memoria delle macchine che registrano le intercettazioni per le procure, una registrazione che la sera della vigilia di Natale risuonò invece nelle stanze di Villa San Martino ad Arcore, all'ombra di uno sfavillante albero tutto bianco. A portarla su una chiavetta furono Roberto Raffaelli della RCS, società titolare delle registrazioni, e Fabrizio Favata, già da tempo socio di Paolo Berlusconi, entrambi già condannati in un processo iniziato per il Cavaliere prima nella veste di parte lesa, passato poi attraverso una richiesta di archiviazione del PM seguita da un'imputazione coatta, e ora una condanna che in un momento di ingorgo giudiziario coi processi Mediaset e Ruby alle battute finali potrebbe pesare sui delicati incastri legislativi. Ed è per questo che lo stesso Favata, in questa intervista da ciascuno il suo, ora dice: è la legge del contrappasso. L'intercettazione che nel 2006 lo aiutò politicamente, ora lo danneggia. Ne rappresenta la conferma di quanto da me sostenuto. Cioè, lei ha sostenuto che voi... l'ho ascoltato, perché quanto è vero Dio l'ha ascoltata, l'intercettazione, e quindi non c'è niente da discutere. Anche i due coimputati, uno lo dice, l'incontro c'è stato ed è stato proficuo. Per lei in questo momento è una vicenda che da un punto di vista giudiziario ha già avuto la sua, diciamo, definizione. Se dovesse ripensare a questa vicenda, come la considererebbe? Ma lo considero un tradimento, il tradimento di un'amicizia. Quello che ho fatto, io ho infranto la legge per aiutare i fratelli Berlusconi, perfettamente consapevole di infrangere la legge quando ho favorito l'incontro di Raffaelli con Silvio e Paolo Berlusconi, quando hanno fatto ascoltare l'intercettazione e quando soprattutto l'abbiamo data al giornale per la pubblicazione. L'ho fatto per vicinanza politica all'epoca con Silvio Berlusconi, per amicizia l'ho fatto, e questo tradimento dell'amicizia veramente è una cosa che non riesco a capire. D'altra parte vedo che si susseguono questi tradimenti da parte dei Berlusconi, perché il caso De Gregorio evidentemente se è emerso è perché Berlusconi non ha mantenuto i patti. La Vitola stessa cosa, questi non mantengono le promesse, promettono Marie Monti, ma io l'ho fatto senza quello che ho fatto, l'ho fatto in assoluta amicizia, senza avere la richiesta di nessun premio. Poi, quando Paolo Berlusconi è andato a gambe all'aria perché si è fatto fregare 130 milioni di euro, e Silvio Berlusconi, tramite i suoi canali, è intervenuto ripianando i debiti del fratello, ma azzerando dalla sera alla mattina i consigli di amministrazione di tutta la società di Paolo, mettendo Ghedini al posto dei legali di Paolo, io mi sono trovato senza lavoro, mi sono trovato veramente in difficoltà. A quel punto io, sulla scorta della promessa, del giuramento di eterna riconoscenza, ho detto: ragazzi, io adesso sono in difficoltà, non ho più il lavoro, sono ammalato, sto male, datemi una mano. È stato il momento in cui lei è andato anche nello studio ma dell'avvocato io sono andato, Ghedini. Mi scusi Calandra, io sono andato anni dopo, che questo fatto si riferisce al 2005, io sono andato nel 2008. Cioè, quando lei è stato in difficoltà? Quando sono entrato in difficoltà ho detto datemi, io ho chiesto un prestito per rimettere in piedi le società che facevano a capo a Paolo, a cui partecipavo io, datemi un prestito oppure datemi un posto di lavoro per mantenere la famiglia. E quindi lei per questo e oggi si è mandato sentito un bel due di picche, mi hanno detto in maniera sprezzante, faccia quello che vuole. Ghedini nel verbale della procura dice che non ne ha nemmeno parlato al presidente Silvio Berlusconi, ma ne ha parlato solo con Paolo, e mi ha detto faccia quello che vuole, noi non diamo nessun aiuto. E invece quella promessa di riconoscenza da parte di chi vi era stata dei due data? Fratelli, dei due fratelli, sia Silvio che Paolo Berlusconi. Quella stessa sera della vigilia di Natale in cui faceste ascoltare l'audio quella ad Arcore. Quella sera è ribadita poi a casa di Paolo Berlusconi, primi giorni di gennaio. Proprio parole testuali, mio fratello ti manda a dire qualsiasi cosa tu abbia bisogno nella vita, non hai che da rivolgerti a noi. La riconoscenza, la generosità dei fratelli Berlusconi è nota in tutto il mondo. Io in quel momento, nel gennaio 2005, avevo il mio lavoro, stavo bene, non avevo nessun problema, ho detto, ma io l'ho fatto per amicizia, mica per niente in cambio. Beh, però per amicizia, lei stesso, come ha detto, era consapevole che stava infrangendo la legge. Io ho infranto la legge per amicizia. Il tradimento più grave è questo. Io ho, per amicizia nei confronti dei fratelli Berlusconi, ho infranto la legge. Consapevole di infrangere la legge. D'altra parte, se lei va ad ascoltare, a leggere la trascrizione delle intercettazioni telefoniche fra la Torre e consorte, si rende conto di che verminaio fosse tutto l'affare BNL. Ecco, appunto, se adesso lei, ripensando a questa vicenda nella sua interezza, se dal suo punto di vista le dice per me è stato soprattutto una storia di tradimento da parte di un'amicizia, la vicenda in sé, secondo lei, è stato un caso di spionaggio politico? Indubbiamente. Ribadisco, se si ascoltasse, se si andassero a leggere le trascrizioni delle intercettazioni, la Torre consorte, di tutto quello che c'era intorno all'affare Unipol, le garantisco che noi abbiamo fatto un'opera da educande. No, io ricordo molto bene la vicenda e mi ricordo anche bene anche tutte le polemiche che ci sono state chiaramente dopo la pubblicazione di questa famosa intercettazione Fassino consorte. Da parte vostra, quindi era molto chiaro la consapevolezza che si trattava di un'operazione di spionaggio politico che avrebbe influito e non poco sull'andamento delle elezioni di lì a poco. Sicuramente. Nel dicembre 2005 Berlusconi era cotto e stracotto, andate a vedere i sondaggi. La pubblicazione di quell'intercettazione ha spostato una montagna di voti. Certo, non ha cambiato l'esito del voto, ma ne ha spostati moltissimi. Quindi però appunto avevate in quel momento, avevate molto chiara la consapevolezza di che cosa significasse quella chiavetta con quell'audio, certo, insomma. Certo. E anche... Infatti, io sono sicuro se quella sera avessi detto la chiavetta costa 5 milioni, mi danno 5 milioni di euro. Io l'ho fatto, glielo garantisco, in assoluta amicizia. Ho chiesto 3 anni dopo, quando mi sono trovato in difficoltà finanziarie, economiche e anche fisiche, perché mi sono ammalato gravemente nel 2007, ho chiesto un aiuto. Mi è stato allegramente rifiutato. E oggi quindi dice, si sono comportati con me come poi hanno fatto con De Gregorio e la Vitola. Con De Gregorio, la Vitola, la Daddario non avevano promesso il cambio di destinazione d'uso di un terreno, il posto come eurodeputata, me ne hanno promesso di tutti colori come loro consuetudine, promettono e poi non mantengono, perché hanno questo delirio di onnipotenza e la gente poi quando si trova abbandonata, disperata, così, poi reagisce in modo scomposto. Gliel'ho detto tranquillamente a Paolo, stai tranquillo che io non affogo da solo, il fango lo tiro, gli spruzzi di fango vanno intorno a tutti. E lui che cosa gli rispose? Lui mi rispose, Fabrizio, come se tu, prima cosa mi disse, se avessi la possibilità di aiutarti, ti aiuterei, ma come sai, se mi ribaltano, dalle mie tasche non esce un nichelino, perché Paolo è stato praticamente commissariato da tutti gli uomini di Silvio, gli hanno chiuso tutte le società. Seconda cosa, poi mi ha detto, Fabrizio, è come se tu mi avessi dato 3 anni fa un passaggio da Milano a Bergamo e oggi vieni a chiedermi i soldi della benzina. Ancora un po' gli tiravo il tavolo addosso. Introduce in un'atmosfera di segreti, minacce e ricatti questa storia di intercettazioni rubate e usate politicamente. Un'atmosfera di nebbia, come quella che c'era il giorno in cui la chiavetta, con l'audio della famosa intercettazione Fassino consorte, raggiunto l'obiettivo, ottenuta la pubblicazione sulle colonne del giornale, fu gettata nel fiume, come racconta lo stesso Favata, che a Silvio Berlusconi manda però ora ancora un esplicito messaggio: se mi avesse aiutato quando ero in difficoltà, dice, questa storia non sarebbe mai uscita e lui avrebbe potuto beneficiare di altre intercettazioni. Parole che ascolteremo nella seconda parte di A ciascuno il suo, parole che aprono però altri scenari e almeno un interrogativo. Altre volte, quante altre volte intercettazioni sono state carpite e portate in dono a qualcuno? A ciascuno il suo. Un'importante scalata bancaria, quella Unipol BNL, una delicata intercettazione, quella tra Fassino e consorte, una pubblicazione che solleva un mare di polemiche e investe in pieno le elezioni del 2006. È il Watergate italiano, la storia del cosiddetto nastro Unipol, l'audio con la famosa conversazione tra l'ex segretario dei DS e l'allora numero uno della compagnia assicurativa. Allora, abbiamo una banca? Un caso che si è tradotto in una nuova condanna ad un anno anche per Silvio Berlusconi e che potrebbe influire in un momento di ingorgo di sentenze sulle complesse trattative politiche ora in corso. Un caso che spalanca però non pochi interrogativi sulla possibilità che intercettazioni mai trascritte agli atti, come in questo caso, vengano rubate da mani esperte e usate per fini specifici, strumentali, fuori dal controllo dell'autorità giudiziaria. E quando tutto questo passa attraverso i responsabili del servizio di registrazione ed intercettazione per le procure, questo diventa ancora più inquietante. Che significa poter aprire falle nel grande orecchio degli uffici giudiziari? Se questo caso, clamoroso, visti i protagonisti, è stato alla fine scoperto e condannato, esistono altri rimasti nell'ombra di segreti e ricatti? In qualche modo è lo stesso Fabrizio Favata, l'uomo che portò ad Arcore la chiavetta con l'audio incriminato, finito poi sulle colonne del giornale, a prospettare questo scenario, allorquando ci dice: se Berlusconi mi avesse aiutato, tutto sarebbe rimasto sotto traccia e lui avrebbe potuto continuare a beneficiare di altre segnalazioni di intercettazioni. È così facile bucare la rete d'ascolto delle procure per propri fini? Con questo interrogativo riprendiamo A ciascuno il suo col racconto di Fabrizio Favata, già socio di Paolo Berlusconi, l'uomo che fece da tredunion tra Arcore e Roberto Raffaelli, il titolare della società RCS che si occupava proprio delle registrazioni per gli inquirenti. Ripartiamo da una chiavetta portata a Villa San Martino la vigilia di Natale del 2005 e fatta ascoltare ai fratelli Berlusconi, poi consegnata al giornale, quindi alla fine gettata nel fiume. La dichiarazione di Paolo che lui non sa come è arrivata sta chiavetta al giornale, che forse è stata spedita. Io vedevo Paolo 3-4 volte alla settimana, avevo in mano una chiavetta del genere, secondo lei io vado in posta sotto Natale a spedire la chiavetta al giornale. Quando lo vedo 3-4 volte alla settimana, non ha senso niente di quello che dicono, non esiste. Lei stesso dice: noi eravamo consapevoli di che si trattasse di un'operazione di spionaggio politico. Infatti si è parlato anche un po' di un Watergate italiano, di qualcosa italiano, del genere. Certo. Ecco, ma l'idea stessa, no, di andare a prendere quell'audio registrato in un'inchiesta particolarmente delicata, mai trascritta, da parte di coloro i quali appunto avevano l'appalto, diciamo, per la procura per fornire le registrazioni delle intercettazioni, quindi godevano anche di un certo tipo di obblighi, di vincoli, oltre che di fiducia. Ecco, tutto questo in qualche modo fa presupporre che ci possano essere stati degli altri casi in cui informazioni, anche se non pubblicate, siano state in qualche modo utilizzate per scambi di favori. Questo non glielo so dire. Sta di fatto che De Ambrosis, che che è un ex collaboratore di Raffaelli, verbalizza che, perché Raffaelli non aveva, faccio una piccola premessa, Raffaelli non aveva la possibilità di ascoltare le intercettazioni, perché Raffaelli cosa faceva? Affittava, noleggiava le macchine alle procure, il suo mestiere era noleggiare gli impianti, non aveva accesso alle informazioni. Questo De Ambrosis dice che Raffaelli gli ha detto che questa intercettazione gli è stata segnalata e mandata da un alto magistrato della procura di Milano, che però poi, questo è verbalizzato, sì, però questa dichiarazione però poi non ha portato a nulla, nel senso, è questo che mi domando, come in Italia non c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, perché i magistrati di Milano non hanno spedito a Brescia, che è competente sul tribunale, sulla procura di Milano, la segnalazione, questa segnalazione, perché Brescia verificasse e aprisse un fascicolo. Furono fatte delle indagini, ma non sono stati trovati, no, diciamo, gli all'inizio estremi. Se c'è una persona che dice Raffaelli mi ha detto che questa intercettazione gli è arrivata, gli è stata segnalata, gli è stata mandata da un alto magistrato della procura di Milano come regalo per Silvio Berlusconi, Milano doveva aprire un fascicolo e trasferirlo a Brescia, o sbaglio? Se non ricordo male, furono fatte delle verifiche su questo, ma che si terminarono con un nulla di fatto. Non è stata nemmeno aperto un fascicolo su queste dichiarazioni. All'interno dello stesso procedimento furono fatti. Ma io, si immagini quanto ce l'ho su quei Berlusconi, ma il trattamento che ho ricevuto dalla Procura di Milano e dal Tribunale di Milano mi conferma che quando dice Berlusconi dice che i magistrati seguono il loro teorema, il loro disegno, ha perfettamente ragione. Parlavo della sua valutazione complessiva dell'operato dei giudici di Milano, questa è una sua valutazione che però, come dire, è una valutazione personale nelle vicende giudiziarie. Personale, nelle vicende giudiziarie contano i, diciamo così, i singoli fatti precisi, non corroborata da una serie di veramente di incongruenze incredibili. Io ero l'anello debole per una guerra fra la procura che mi ha messo dove mi ha messo, nei giorni in cui, vado a controllare se dico bugie, in Parlamento si discuteva la nuova legge sulle intercettazioni telefoniche, per cui faceva comodo alzare un polverone su questa vicenda, ma senza uno straccio di prova, senza niente. Però lei stesso ha detto che era consapevole di aver violato la legge. Io mi sono chiamato, quello che ho fatto io me lo sono chiamato, ma mi hanno appiccicato una serie di reati che non stanno né in cielo né in terra. Lei dice, appunto, all'epoca quell'intercettazione ha portato un aiuto politico non indifferente a Berlusconi con la sua pubblicazione. Oggi la sentenza per la vicenda legata a quella intercettazione, molti dicono che potrebbe danneggiare Berlusconi nelle trattative politiche che sono in corso in questo momento per questa situazione politica così complicata. Allora, secondo lei che cos'è? Un po' una forma di legge del contrappasso? Evidente. Chi di spada ferisce, di spada ferisce. Uno che tradisce gli amici che infrangono la legge per aiutarli, per dare un aiuto, per correre in soccorso, ribadisco, Berlusconi, vado a vedere, dicembre 2005, se ha possibilità, controlli i sondaggi, era morto, è andato praticamente a impattare le elezioni del 2006 sulla scorta di questa pubblicazione. Tenga presente che Fassino, segretario di S all'epoca, si è dimesso, è andato a fare il commissario per la Birmania, è come se 20 giorni fa in campagna elettorale Bersani avesse avuto uno scandalo per cui doveva dimettersi e andare a fare il commissario per la Birmania. L'assurdo che Berlusconi è stato prima considerata parte lesa, poi accusato e oggi condannato, ma Silvio Berlusconi all'inizio del processo era parte lesa. Lei dice, se all'epoca, anche se poi comunque non ha vinto ma aveva rimontato moltissimo, Berlusconi da quell'intercettazione fu avvantaggiato, ha perso per oggi due seggi al Senato, Certo. Se no aveva impattato le elezioni. Certo, però dico, oggi la condanna per quella stessa vicenda è un po' la legge del contrappasso, perché rischia di danneggiarlo. Ma mi scusi, se mi avessero dato uno straccio di posto di lavoro, secondo lei, io avrei alzato tutto il polverone che ho alzato. La vicenda rimaneva sotto sotto traccia, nessuno ne veniva a conoscenza, non conveniva loro darmi uno straccio di lavoro per poter mantenere la mia famiglia, visto che gli avevo salvato la cosa. Tenga presente che il buco di 130 milioni nella società Solaricom gliel'ho scoperto io. Paolo mi ha giurato eterna riconoscenza anche per quello. Lei non l'ha mai più risentito, vero, dopo questa vicenda? Per l'amor di Dio. Con un sorriso, una stretta di mano, oggi Silvio Berlusconi era bello tranquillo e probabilmente avrebbe potuto usufruire di altre segnalazioni di nefandezze che tramite le intercettazioni facevano gli altri. Io l'ho salvato, gli ho fatto impattare praticamente le elezioni, tant'è che Prodi poi è rimasto su 2 anni, ha resistito 2 anni senza far niente e poi ha rivinto Berlusconi a mani basse, grazie al sottoscritto. Lei oggi cosa fa, Favata? Disoccupato. Non ha ancora trovato oggi una sistemazione? Oggi sto facendo l'ennesimo trasloco. Io ho 60, vado per i 63 anni, sono ammalato, ho l'etichetta addosso di quello che ho, secondo lei io trovo un posto di lavoro. Oggi stiamo facendo l'ennesimo trasloco. Per morosità, mia figlia, che ha oggi 8 anni, 2 anni fa, un giorno mi ha detto: papà, se abbiamo i soldi mi compri il gelato. Io che ho l'eterna riconoscenza di Silvio Berlusconi. Nell'archivio di A Ciascuno il Suo trovate anche un'altra puntata dedicata al caso del nastro Unipol, il Watergate italiano, in cui tra l'altro si parla pure di altre richieste di intercettazioni arrivate all'epoca alle stesse persone. Fatemi sapere cosa ne pensate sul blog Storiacce o sulla pagina Facebook Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra e l'hashtag A Ciascuno il Suo. Ciao a tutti, alla prossima settimana.